Giorgio, sono io, sono il killer, il collezionista. Ricordati una cosa, ti ucciderò, bastardo. Appena lo apri io esco e ti accoltello. Bastardo! Bastardo! Io non ho paura di te. Ricordati che io non morirò mai. Figlio di puttana! Nella macchina, bastardo. Scommetto che sei invidioso che ho fatto questo disco e tu non ci sei dentro, vero vecchio? Ti ucciderò!